Radio Italia Network, Orgasmatron. Nell'Olimpo degli dèi, Mistress Barbara. Spossato dalle fatiche dell'amore, Marte si abbandonò tra le braccia di Venere. Fu Mistress Barbara a riaccendere i loro irrefrenabili istinti. Orgasmatron, RIN, Radio Italia Network, nell'Olimpo degli dèi. invaghi di Venere ed ebbe da lei Eros, il dio dell'amore. Orgasmatron! Nell'Olimpo degli dei stava suonando Mistress Barbara! per i romani, Afrodite per i greci. La dea della bellezza e dell'amore sensuale, quella notte fu attratta dal richiamo musicale di Mistress Barbara, Orgasmatron, nell'Olimpo degli dei. La dimora degli dei. Uno di essi era Mistress Barbara, Orgasmatron. Nell'Olimpo riecheggiava la sua musica. Marte e Venere consumarono il loro amore nel palazzo di Efesto, dove riecheggiavano le prodezze musicali di Mistress Barbara. Febo dall'alto li vide e lo riferì al dio del fuoco, che infuriato meditò vendetta. Nell'Olimpo degli dei. We'll be right back.